Alessandro Amante. Buonasera a tutti. Eccolo qua. E poi abbiamo Luca Balboni. Buonasera. E sono queste persone qui, diciamo, Enrico principalmente, diciamo, produttore. Basta così. Basta così, non basta, no, dopo speriamo anche le altre, sì. E invece Alessandro Amante, fammelo dire ancora scusa, è il regista. Mm. E poi abbiamo Luca che è il compositore. Molto bene. E insieme hanno creato, in realtà loro si conoscono da tempo e hanno già avuto altre frequentazioni insomma con esito cinematografico. Io intanto abbasso un po' la musica di sottofondo che mi sta facendo venire la tachicardia. Ma abbassati le cuffie. No, ma le cuffie, le mie cuffie. Vabbè, sono... comunque non importa. Le abbasso per gli ascoltatori, non per me. Ma preparati con il brano, perché siccome... Sono prontissimi. Perfetto, perché noi siccome andiamo a parlare della tela di Giuliano, che è questa cosa che hanno creato insieme, ma non da soli, perché in mezzo c'è anche Giuliano. Assolutamente. Giuliano, questa tela di Giuliano una persona. Ci sono tutti, ma manca Giuliano. Intanto sento dei rombi di motore qua fuori. Hai detto bene, rombi di motore, perché Giuliano è la persona, il protagonista, però in realtà la sua tela è un'auto ed è una Bizzarrini, che io l'ho scoperto solo grazie a questo progetto. Tra l'altro tu non conoscevi le Bizzarrini? No, e ho il foglio rosa da un mese, quindi per la prima volta nella mia vita, quindi sono un caso umano. Comunque neanch'io. Neanche tu? No, però mai sentite dire. Io che settimana scorsa sono stata all'anteprima della tela di Giuliano in Cineteca. Ah, giusto che me l'hai detto. Ho visto sia Giuliano che la Bizzarrini. Spavento. E non hai fatto anche nessuna foto? Ho visto anche il documentario. Hai fatto una foto alla Bizzarrini? Sì, che ma la era troppo grande, blog. Non riuscivo a farla stare tutta. Ma è grandissima quella macchina. C'ha questi occhioni che ti guardano da sotto un po', e mi ricorda la corsa più bassa del mondo, quella con le labrona, sì. Penelope Pizzo. Insomma, ti è piaciuta. Comunque un messaggio per Gifo, se mi vuoi scrivere, sappi che l'iPad funziona. Perfetto. Non si può dire iPad su Radio Città Fujiko, perché noi usiamo tutto open software. Ma Il tablet tuo? Il tablet, sì, è un tablet open source. Allora, adesso per entrare meglio nello specifico e non perdere altri secondi preziosi, esatto. Io direi partiamo con. Facciamo dimmi sì, tutto, l'opera di Luca Balboni, quindi una parte della colonna sonora e poi. Che è andiamo. Tipo questa? È questa, è vero? Bello. Confermiamo. Sembra una cavalcata delle Valchirie, ma. Alza il volume, va. Che succede? E questa era l'intro. Ah, che meraviglia, possiamo andare avanti con le altre, allora l'usiamo un po' da sottofondo. Ma no? un po' alla volta, secondo me ci sta, però un po' alla volta. Un po' alla volta. Perché poi qualche altro brano potrebbe esserci utile nel passo successivo. Mm-hmm. Adesso che questo qui è un pochino proprio il tema portante, esatto. Dico bene Luca? Il tema principale, che rappresenta l'emozione, diciamo, di aver portato un sogno che all'inizio sembrava distrutto, cioè che con la ditta Bizzarrini che falliva, invece Giuliano, dopo anni e anni di lavoro, di impegno, è come se avesse fatto vivere di nuovo quel sogno. Perché questa tela di Giuliano è un po' come la tela di Penelope. Esatto. Dico bene? Ci sono arrivato, che meraviglia. Però un passettino indietro, perché molti non hanno avuto la fortuna di... Non sappiamo chi è Giuliano e che cosa stiamo parlando. Risposto il microfono dall'altra parte, perché ci viene in aiuto Enrico, che è un pochino la persona che ha messo insieme questa possibilità. Che ha avuto questa idea matta di fare i documentari e il film. Perché io nasco appassionato di automobili, di autostoriche, e ho fatto della mia passione un lavoro. Giuliano è uno dei miei amici che da quando ero piccolo hanno contribuito ad aumentare la mia passione, e poi oggi nel mio lavoro mi aiuta in tanti lavori che un artigiano molto abile come lui è in grado di fare. Quindi ho conosciuto Giuliano da quando sono nato. E nella sua bottega Stiamo parlando di una bottega di un meccanico. Di una bottega di un artigiano meccanico, tutto fare, non saprei definirlo neanche. Io lo definisco un matto, bonariamente un meccanico matto. O mago. Un mago, va bene, ma. Sa un po' anche dell'alchimista. Io che non ho la fortuna di vederlo. Sì, è vero. Io ho sempre visto queste due macchine, perché le macchine che lui acquistò dal fallimento Bizzarini erano due scocche in realtà, due carrozzerie per intenderci, che lui comprò nel 70 quando aveva 28 anni, quindi quando aveva l'età mia e di Alessandro, quando abbiamo iniziato a girare il documentario. Ah vabbè, allora! Quindi anche questo era un'altra nota che non poteva esimerci dal fare questo documentario. Giuliano a 28 anni ha avuto l'idea di comprare dal fallimento Bizzarini queste due scocche e da lì di costruire una macchina per sé e una macchina da vendere. Due scocche. Ecco, ve ne avevo parlato. Two shells. Two shells. Si dice shells davvero in inglese? Scocca? Body shells. Ah, yeah. Fantastico. Yeah. Yeah, of course. Queste due scocche le ha costruite partendo quindi da zero, dal nulla, e tutto ciò che ha costruito per fare una macchina, quindi dentro, tutto quello che ha messo dentro, la carrozzeria, le ruote, gli specchietti, il volante, il motore, ha usato un altro motore rispetto a quello che era quello della Bizzarini, è stata opera sua in 45 anni. Ma come, se ha usato un altro motore non ha più una Bizzarini? Non è più una Bizzarini, è una Bizzarini 19, da una 19 GT Europa, che era il modello originario, è nata una GTS Europa, perché S sta per speciale. Giusto per dare un'idea di chi sia Giotto Bizzarini, cioè il fondatore dell'azienda, è sconosciuto ai più, però è il papà della Ferrari 250 GTO, che è la Ferrari più cara e costosa di tutti i tempi, abbattuta oggi alle aste per 30 milioni di euro, 40 milioni di euro. It's a Bizzarini special. Esatto. Quindi Bizzarini è una persona oggi ultra novantenne, ma che è stato un genio, fantastico. Lui dovevamo chiamare. Alla prossima faremo il meeting. La reunion. Giuliano e Bizzarini, che si sono incontrati poi tanti anni fa, una decina d'anni fa, dove Giuliano ha fatto vedere le foto della sua opera. E Bizzarini, da buon livornese, non si è sbilanciato troppo. Ha detto: tu mi stai un po' sul cazzo. Ha detto, no, ha detto sul coxo, per favore. Coxo, dai. Cioè. Sai che ha fatto un bel lavoro, ha fatto una bella cosa. Lei giunta, quindi però è una S. Però una S non è la mia. Esatto. Beh, e quindi insomma era nel destino incontrare quest'uomo, appassionarsi di questa storia. Sì, perché io ho sempre visto questa macchina pazzesca, mai finita, e del perché, ecco, quindi questa tela, perché la scelta della tela e del perché del documentario. Molto banalmente, una sera tornata a casa, stavo cenando con mia madre, che anche lei conosce Giuliano per sentito dire, era amico di mio padre, stavo raccontando che Giuliano aveva smontato ancora un'altra cosa della Bizzarini. E lei fa: ma non la finirà mai questa macchina, bisognerebbe fare un film. Ah, tua madre addirittura. Così. E però da quella battuta poi io... Da quella battuta adesso passo di qua da Alessandro. Esatto. Quindi, da questa battuta cosa è successo? Ti ricordi quando te l'ha proposto? Assolutamente sì, io vivevo ancora a Los Angeles dove ho studiato cinema. Io ho lavorato e ero ancora lì quando Enrico mi ha chiamato e mi ha detto: c'è questa storia molto particolare. Stava a Los Angeles anche lui? No, lui era a Bologna. Ah, quindi era Bologna, era su Skype. Non mi ricordo io, sinceramente. Los Angeles, Bologna, un attimo. Come tu pensai. E lui mi disse: io ho questa storia pazzesca, dobbiamo fare un film. Allora, dato che un po' mi intendo di produzione cinematografica, ho proposto di fare un documentario per, diciamo, battere alcuni costi. E così è nato questo progetto. Abbiamo fatto, Enrico, ma abbiamo fatto delle ricerche insieme, lui sapeva tutta la storia, dai tipi Bizzarrini, insomma, e io non sapevo niente, non sapevo del marchio, non sapevo di Giuliano, ovviamente. E l'ho trovata subito una storia affascinante. E dal punto di vista della scrittura, come avete proceduto? Ma abbiamo messo insieme, diciamo, una linea narrativa. Sempre sulle su Skype, mail, Google Doc. Esatto. E poi, in realtà, strada facendo, abbiamo deciso di fare interviste aggiuntive. Perché comunque alla storia servivano sicuramente. Infatti io ricordo almeno due altri ambienti rispetto alla fucina di Giuliano. Esatto. Allora, lo storico che introduce? Sì, Carlo Dolcini, che è un professore di storia contemporanea, esperto di automobilismo, e che ha stato questa voce, questo narratore onnisciente, diciamo, che apre e chiude la storia. E Mauro Prampolini, che è un artigiano meccanico della Bizzarrini. Esatto. Lui che ha veramente costruito le scocche, poi l'azienda è fallita, lui ha fatto altre cose e per la prima volta l'ha visto questa macchina pronta, finita, ed era entusiasta. Anche lui si vede nel documentario che è molto colpito dal lavoro. Sì, anche perché poi lui entrava più, mi pare di aver compreso nella restituzione di questa persona, che effettivamente lui era quello che risolveva i problemi, entrava nella meccanica, certo. Proprio nella creazione dei circuiti. Assolutamente. Ed infatti a cofano alzato la macchina di Giuliano è meravigliosa. Sì, è un capolavoro. Peccato quando la abbassi, no? Quando la abbassa ancora di più. Poi perché devi, posso dirlo un po' più con qualche anticipazione sulla pellicola? Sì, certo. Perché sono andati anche si chiama autodromo, sì. Quella dove si guidano le macchine. Sembra di sì, me l'ha detto Enrico l'altro giorno. Ma dicono che si chiama autodromo. Ok, dove dovrei andare io prima, intanto che questo foglio rosa che ho è meglio, vabbè, insomma, limitare. No, comunque, quando sono andati a fare il giro di prova, indovina chi faceva da copilota? Chi faceva da copilota? Enrico. Ah, fantastico. Per un attimo ho avuto timore che dicessi Michael Schumacher. Volevo procedere il giro ed andare da Luca. Un attimo, che voglio. Com'è stato salirci? Dopo tutta la vita che la vedevi. Salirci non è stata un'emozione, perché io ci salivo tutte le volte da fermo. L'emozione è stata vederla fuori dall'officina, quindi fuori dal suo ambiente, e con la luce del sole e vederla in movimento e starci anche dentro mentre andava. Quindi che sensazione è? Com'è? Beh, è stata emozionante proprio vedere l'emozione di Giuliano, che come si vede nel documentario inizialmente, quindi il giorno prima, non fa trasparire emozioni e sostiene di essere assolutamente impassibile. Poi in realtà appena gira la chiave si lascia andare a qualsiasi tipo di emozione. E poi c'era la chiave dell'evento speciale, perché lui ha pensato a tutto, nella sua pazzia ha pensato a tutto. Allora, ripasso di là, perché stiamo parlando di emozioni, di come è nato il film. A che punto sei arrivato tu, Luca Balboni, compositore? Allora, io in realtà di questo progetto avevo sentito parlare praticamente quando è nato, molti anni fa. Quando eri di fianco a Skype. Esatto, anche io. Intercettava. E poi man mano Alessandro mi ha aggiornato, insomma, sugli sviluppi. E so che il montaggio è stato un lavoro molto lungo, perché hanno dovuto riunire video di ogni dove per raccontare una storia. Ah, certo. Capito? Quindi per anche loro a tessere, insomma, certo, mica solo Giuliano. Per renderlo il più cinematografico e, insomma, possibile, che attirasse l'attenzione anche di chi lo guarda e che non fosse, cioè non si soffermasse troppo sulla tecnica in sé per sé nel fare la macchina, ma sulla storia di Giuliano. E infatti ne parlavo prima con Luke, con Alessandro, che sto cominciando con le gaffe, allora, in mezzo a tutti questi uomini mi confondo, lo sai Pasquini, vero? Ed effettivamente è presentato come un documentario questo film, però nella restituzione dei personaggi, l'introduzione dello storico ti mette già in un, insomma, c'è qualcosa che comunica, che non è così freddo come ti aspetteresti da un documentario. Sì, anche perché in realtà Giuliano si chiama Silvano nella vita reale e la Bizzarrini in realtà si chiama Normaletti. Ecco, Pasquini a parte, volevo chiederti, questo c'entra tanto anche con il tuo contributo. Sicuramente. Allora, di base, cioè Alessandro, la sua esperienza viene innanzitutto dal cinema, quindi lui proprio ha un linguaggio cinematografico e, cioè, si vede anche nel documentario che lo sviluppa, insomma, lo utilizza. Poi sicuramente con la musica siamo intervenuti dove già le immagini dicevano già tutto, insomma, quello che dovevi sapere. La musica alla fine sublima quelle che sono le emozioni. E all'inizio le prime bozze, io abituato nel, insomma, diciamo nell'industria ad avere molte richieste su questo genere, solitamente sulle macchine, sullo sport, ho diciamo introdotto la prima musica come era una musica leggermente tamarra, diciamo, definita da giustamente il termine Alessandro. Tecnico. E quello che abbiamo fatto successivamente, che Alessandro mi ha raccontato la storia di Giuliano, perché effettivamente dovevo entrare anch'io nel vivo del progetto, ed è così che si fa alla fine una colonna sonora, cioè una collaborazione che nasce innanzitutto dal sodalizio del regista e del compositore, e così è avvenuto, cioè la colonna sonora non è adesso l'ho messa a palla, certo. È questa, ecco, questa musica qui, questa traccia la definisco diciamo tema giocoso, perché lo stesso Giuliano non è una persona che si prende troppo sul serio, e quindi la musica doveva rispecchiare innanzitutto il carattere di Giuliano, quindi c'è un po' questo ritmo quasi cartonesco, in questa musica. Allo stesso tempo, quello che doveva fare la musica, oltre a raccontare la storia, doveva anche, come si può dire, dire quello che non dicevano le parole, essenzialmente. Quindi, quando c'erano molti dialoghi, la musica stava, diciamo, più soft, più in sottofondo. Esattamente. E poi quella che abbiamo sentito all'inizio, invece, era sicuramente uno dei momenti più emozionali del documentario, dove vediamo finalmente la macchina muoversi per la felicità di Enrico anche, di Giuliano. Ma ti dirò che a quel punto della narrazione filmica tutti eravamo contentissimi, mi ho detto sì, andate. Ma sì, perché in questo caso sia la musica, ma di base proprio il documentario rappresenta alla fine, non è tanto la macchina, la macchina sì è un capolavoro, ma la macchina è un simbolo in questo caso, il simbolo di qualcuno che riesce a realizzare qualcosa nonostante le difficoltà, nonostante il tempo, nonostante magari altri potrebbero dirti lascia stare, torna a fare qualcos'altro, capito? Non so se avete mai visto quel film Cloud Atlas. Sì, meraviglioso. Ecco, che in una delle scene finali, e adesso esattamente le parole non me le ricordo, però lì un personaggio dice, ma guarda, c'è un ordine naturale delle cose, cioè quello che tentate voi di fare, di soverchiare questo ordine, tutti falliscono, insomma, non ci riuscirete mai, o perlomeno finirete molto male. E non è che il vostro contributo che una singola goccia d'acqua in un oceano. Invece l'altro personaggio risponde, ma un oceano è fatto da una moltitudine di gocce d'acqua. Ma quello lì che diceva la battuta cattiva era... Era il personaggio negativo. Quello del futuro. Sì. Quello lì che alla fine... Che poi non necessariamente cattivo, rappresenta, se vogliamo, la persona pessimista, no? Oppure quella lucida che dice che si scarma dietro la scienza, la visione... It's a Bizzarini special. Hell yeah. Indubbiamente. A che punto siamo della nostra scaletta? Siamo a buon punto. Sì, possiamo continuare a chiacchierare o tra un po' ci tagli con... Non vedevo l'ora di tagliarvi. non è vero, abbiamo ancora... No, abbiamo ancora un minuto e 22. Io ho il problema 20. Di Pasquino, che mi si annoia sempre. Posso metterla vincente, visto che Vai. Siamo arrivati? Senti qua. E ci vediamo dopo le pubblicità? Sì, facciamo così. Ok. It's a Bizzarini special. Creatività generica. La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Pape Pasquin, Pape Pasquina Leppe, e non so perché lo dico. In verità, se ci penso, non so quasi nulla di nulla, ma al momento me la cavo piuttosto bene. Di solito, chi non sa nulla ha molti meno problemi nella vita. Hai un problema? Puoi risolverlo? No. Allora non hai un problema. Puoi risolverlo? Sì. Allora non hai un problema. La vita alla fine è così semplice. Basterebbe osservare i bambini. Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: a essere contento senza motivo, a essere sempre occupato con qualche cosa e a pretendere con ogni sua forza quello che desidera. Non serve altro. Quando si cresce poi si deve razionalizzare tutto, bisogna conoscere il perché di tutto, bisogna sapere i motivi di tutto ciò che ci circonda. E allora mi chiedo, perché nei certificati di nascita è scritto dove e quando un uomo viene al mondo, ma non vi è specificato il motivo e lo scopo? Domani andrò in comune a modificare la mia carta d'identità. Farò aggiungere la dicitura scopo di vita e ci farò scrivere ricominciare da capo, ma non nel senso di inizio, ma nel senso di leader. Il diamante della bellezza. Due centri estetici italiani di altissima qualità. When it's all over and my time is at hand, I wanna go out the way I began. Satin and cedar, what is that worth? Just strip me down, give me back to this earth. 'Cause ashes are ashes and dirt is dirt. I'll be a memory, so how can it hurt to break down and build up and bear some fruit? Oh, wrap me up in a mushroom suit. In her baby blue dress, she's looking so peaceful, but her family's a mess. They came from all over, but who knows what for? 'Cause the person they loved isn't here anymore. 'Cause ashes are ashes and dirt is dirt. I'll be a memory, so how can it hurt to break down and build up and bear some fruit? All wrap me up in a mushroom suit. Yeah, wrap me up in a mushroom suit. Ashes and dirt is dirt. I'll be a memory, so how can it hurt to break down and build up and bear some fruit? All wrap me up in a mushroom suit. Ashes are ashes and dirt is dirt. I'll be a memory, so how can it hurt to break down and build up and bear some fruit? All wrap me up in a mushroom suit. Yeah, wrap me up in a mushroom suit. Oh, wrap me up in a mushroom suit. Oh! Yeah! Come yeah? Hey yeah! Ma perché hai messo il brano e non i due minuti di Lolly? I due minuti di Lolly mettiamo dopo. Ah, come sigla? Ok. Sono io la regia, Fedra. Performance, ricerca, teatro. Ma non c'erano le menzioni? Sì, certo. Le vuoi fare subito? Facciamole, e facciamole subito. Quante storie che hai, non ho capito. Scusa, se la regia la faccio io. Le menzioni saltano. No, è che c'è l'appuntamento telefonico. Ah, è l'appuntamento telefonico, subito? Sì, sì, no, subito, dopo, perciò. Perciò. Perciò. Cos'era? L'angolo della menzione. Ok, qua non ci siamo neanche messi d'accordo su chi comincia con tutte queste chiacchiere. Ah, giusto, io fra l'altro non trovo più la mia schermata, per cui comincia tu. Va bene, ti faccio così quando c'è da mettere la gran cassa. Fai così. Ma rompo il ghiaccio io, che mi sembra semplice. Sì. Sabato 17 dicembre alle ore 12, inaugurazione della mostra Insegnati da Bologna, ho letto bene? Non lo so, no, io non ho proprio, cioè io francamente Inseng non Inseng con la A maiuscola T, no, io non ho capito il gioco di parole, infatti. Neanch'io. Adesso domani che ci vado glielo chiedo. Premio Zucchelli 1963-2016 a cura di Beatrice Buscaroli e Elena Marchetti, in esposizione un'opera per ognuno dei vincitori delle borse di studio che dal 1963 al 2016 sono state elargite agli studenti meritevoli, tra virgolette, vabbè, come recita l'antico bando dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. E siamo a posto. Ah, quindi quella del 17... No, niente. Quella del 17 è domani. Perché sabato domani succede anche una cosa veramente, veramente molto coerente col tema della trasmissione. Infatti, se la settimana scorsa c'è stata l'anteprima, chi legge la prossima? Adesso io. Vai. Penso di saperlo. Ma scuola. Domani alle ore 17:10 ci sarà la prima della tela di Giuliano, cioè del documentario che ci vede protagonisti, alla Cineteca di Bologna. E il documentario è quello prodotto dal mio caro amico Alessandro Mante ed è in concorso anche per il premio Davide Donatello 2017. È la storia dedicata al nostro amico meccanico bolognese Giuliano Giunta, che in oltre 45 anni si è costruito la sua Bizzarrini 1009 GTS. Yeah. Tocca a me, come facciamo a fare? Come fai ma tu? No, a fare... adesso si ascolta un po' della colonna sonora della tela di. È questa tipo? Sì. O la volevi emozionare? Mettiamo l'emozionale. Non è ancora messo. Vabbè, le ho già messe tutte e tre. Raccontatemi questi premi che non ho capito niente. Dunque, mentre la post-produzione del documentario procedeva, il trailer era già finito e quindi ho detto, ma ho trovato questo festival che accetta anche trailer, che non ce ne sono tanti al mondo che accettano i trailer. E l'ho mandato e dopo un po' ci hanno contattato dicendo siete in concorso. E alla fine siamo andati... Infatti eravamo abbastanza emozionati. Siamo andati a New York io e Enrico e alla fine abbiamo vinto due premi al Long Island International Film Expo 2016. Cioè due, non uno. Esatto. Uno a testa, perché sennò dovevamo tornare a casa con qualcosa. Sì, poi si litigava, era brutto. Anche perché ufficialmente siamo andati per quello, in realtà era una vacanza, quindi ci dovevamo dare un tono tornati a casa. E quindi abbiamo vinto miglior trailer e miglior direzione artistica tra 100 progetti audiovisivi, quindi siamo stati molto contenti. Fantastico. due minuti di no, ho sbagliato. Vabbè, questo player ogni tanto fa dei brutti scherzi. No, però lo stacco nello stacco della batteria c'era, quindi siamo ancora nelle menzioni, anche se io mi sono un attimo allontanata nell'etere. Esattamente. E allora continuiamo. Continuiamo. Chi va alla prossima? Vado io? Vai. Tu. Va bene. Allora, sabato 17 dicembre. No. Sì, ore 18. Aldo Mondino, Grand Tour contemporaneo, che è una personale dell'artista torinese e sarà alla Galleria Astuni a Bologna in via Barozzi 3. Ricchi Premi e Cotillon. È di nuovo di parte. Allora, sempre sabato 17 dicembre, ore 21. Gli indiani di pianura dicono Zuag, se l'ho detto bene. Chiude la prima edizione di TP, spettacolo conclusivo del progetto TP, uno spettacolo che nasce dalla partecipazione attiva dei cittadini della Bassa. Pala Round Table, Piazza Italia, San Felice sul Panaro, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. E con questo salutiamo anche la nostra dolce Irma Ridolfini. Ah. Salutiamola, che c'è di TP Teatro, c'è anche la Irma. Quando torni, mia cara. Allora, questa qui la faccio io allora. L'ultima menzione della 163esima puntata del Coxo è mercoledì 21 alle ore 21, Anatomia all'Arena del Sole. Finalmente a Bologna il nuovo spettacolo della danzatrice e coreografa Simona Bertozzi, creato in dialogo con le musiche live electronics di Francesco Giomi e la visione teorico-compositiva di Enrico Pitozzi. E bisogna staccare di nuovo la batteria perché abbiamo in linea... Chi abbiamo in linea? Simona Bertozzi. Simona, davvero abbiamo in linea Simona? Salve, no? Buonasera a tutti. Sì, riconosco la sua voce. Ciao, eccoti. Benvenuta su Coxo Spaziale. Grazie per essere con noi. Come va? Come va? Come vanno le prove all'Arena del Sole? Insomma... Le prove all'Arena del Sole cominceranno lunedì, però le prove sono già iniziate da tempo in altri spazi e sono nel pieno, insomma, con purtroppo un'influenza non prevista che sto smaltendo, ma questo è parte del momento, quindi insomma tutto procede, insomma, siamo nel pieno, siamo carichi, contenti di poter portare a Bologna questo lavoro, insomma. Quindi questo lavoro che ha già debuttato a Ravenna, se non erro, qualche mese fa, e di cui io sono curiosissima. Com'è stata questa collaborazione a tre? Allora, in realtà Francesco collabora con me già da un paio di anni, perché è compositore delle musiche degli ultimi miei lavori più importanti, più articolati, e quindi diciamo che è stato un ritornare ad una collaborazione cercando di approfondirne alcuni aspetti e aprirne altri magari non ancora sondati, e questo per quanto riguarda appunto la relazione fra la mia ricerca coreografica e la presenza del suono e il dialogo con il paesaggio sonoro. E anche con Enrico Pitozzi in realtà c'è una collaborazione già aperta da tempo che investe tutto un ambito della formazione, facciamo una serie di laboratori, di pratiche, di formazione che condividiamo da tempo, dove in qualche modo si intersecano, interagiscono quella che è la sua visione teorica, di approfondimento teorico su quello che è la visione del movimento, l'idea del concetto di presenza, l'attenzione alla scrittura coreografica, è quello che è un po' appunto la mia pratica invece diretta dal corpo allo spazio e alla creazione della appunto coreografica sul campo. E quindi diciamo che anche con Enrico si è ripreso, si è riapprofondito, si è dato nuovo spazio a un dialogo preesistente che quindi ecco a tre per la prima volta invece ha trovato poi spazio e desiderio di diventare anche un luogo performativo, e quindi abbiamo pensato insomma, di condividere questo nostro pensiero in quello che poteva essere direttamente un evento di scena, dove io e Francesco ci agiamo direttamente sulla scena e Enrico sviluppato una supervisione, un'attenzione a quello che è il costrutto, e quindi ci segue diciamo, come occhio esterno che incanala e sostiene e vede, intravede su quello che è tutto il costrutto generale. E che dire, una domanda sì, rispetto al debutto di Ravenna, ci sono delle novità che sono state sviluppate Allora, in realtà, beh, chiaramente come tutti i lavori, quando il lavoro arriva al debutto è il momento in cui comincia a mostrare veramente quello che è, quindi qualche piccola variazione c'è sempre. Ogni volta c'è stata anche questa volta variazione che ha significato, insomma, riprendere in mano il materiale, cioè cercarne la possibilità di rendere ancora più significativi quello che per noi sono i punti di appoggio principali, le temperature interne, i piccoli ritmi interni, il dialogo appunto tra il sonoro e quello della coreografia. Quindi abbiamo rivisto alcuni elementi, abbiamo cercato di dare quella che per noi potrebbe essere una maggiore efficacia al costrutto. E c'è anche un'altra novità che riguarda una presenza in più, che però la scopriremo, non vorrei svelare, la sorpresa di mercoledì, esatto, infatti non vedo l'ora che trascorrano questi giorni per venire per tornare a vederti. E ti ringrazio molto per aver partecipato alla nostra trasmissione e ovviamente ti aspettiamo qui dal vivo. Benissimo, appena è possibile. Sì, mi spiace, però sicuramente alla prossima non mancherò. Grazie per questa ospitalità e per la possibilità di aver raccontato un po' questo lavoro, e vi aspetto, insomma. Quando vuoi, noi siamo sempre qui ad attenderti. Ci vediamo mercoledì, allora. Buon lavoro, grazie. Grazie mille, grazie anche a voi, buona serata. Ciao. Ciao. Oh, che bello, è tutto qui. It's a Bizzarini special. Oh, yeah. I più belli sono gli stacchi di batteria, però devo prendere ispirazione. Ma dai, il coxo può aver ispirato i futuri lavori di Luca. Comunque Balboni. Considera che dietro ai nostri jingle c'è un maestro che abbiamo avuto la settimana scorsa qui in trasmissione da noi, Riccardo Lolli si chiama, è un matto. Ed Enrico Farnedi. Ed Enrico Farnedi, insieme. Ha ragione. No, che fra l'altro lunedì suonano, mi sono dimenticato di metterli nella menzione. Diciamolo adesso allora. suonano a Cesena, però non mi ricordo dove, però posso fare... Va bene, fai quello che devi. Esatto. E noi intanto andiamo avanti. Andiamo avanti? Non lo so. Ma ce l'abbiamo un gingolino sul cinema per caso? Sì, abbiamo questo qua. Ricerca. Sempre quello. Sempre quello. Ti mica ha fatto tirare fuori anche al Veneto questo. Va bene, andiamo avanti. Allora, le menzioni. Attività generica. Capito? Le menzioni sono andate. Le menzioni sono andate. Don't save. E ci portiamo avanti così. La musica di sottofondo c'è. C'è. Simona Bertozzi, l'abbiamo salutata e l'andremo a vedere mercoledì. È bello che fai il riassunto di tutto quello che dovevi fare in regia, ma che a questo punto c'è cioè una cosa meravigliosa. Abbiamo un altro quarto d'ora di trasmissione in cui possiamo spremere i nostri ospiti per spremere dalle loro meningi e tutti i segreti, ma ricordi. Ma possiamo avere tipo due minuti di pausa in questo oppure no? Un branino. I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Alcuni scissionisti del premio Tenco presero in affitto un capannone a Zola Predosa e idearono il premio Conte. Alcuni scissionisti del premio Conte occuparono un negozio di cartucce compatibili e stamparono il manifesto del premio Tenconte. Alcuni scissionisti del premio Tenconte si arrampicarono sul lampione a LED e rivendicarono la paternità del premio Contenco. Alcuni scissionisti del premio Contenco aprirono una pompa GPL, fecero causa al premio Tenconte per manifesto anagramma e per favoreggiamento di manifesti e al premio Contenco per accuse d'arrivismo e dubbi di qualunquismo. La Kuwait fece causa al premio Contenco per turbativa d'basta, al premio Tenconte per aggiotaggio e agli scissionisti Contenco per furoreggiamento di carburanti. Alle successive elezioni amministrative si presentarono la lista Conte, la lista civica C'è Not, la lista musicale Note C, la lista delle disco Tecno, la squadra di calcio a 100 col CD Eno e la lista dei medici allergologi Etcno. verso mezzanotte, al termine dello spoglio delle schede, tutti si accorsero con uno sguardo che il comune di San Giovanni in Persiceto era stato accorpato al comune di Montelupone, provincia di Macerata, grazie alla scoperta da parte delle forze dell'ordine di un tunnel da sempre utilizzato per l'immigrazione illegale. Nel ante 67 venne censito in categoria C2 e venduto all'ultimo pensionato che lo trasformò in bed and breakfast. Già finito? No, magari sto sentendo. Eh sì, perché aveva alzato il volume a tradimento il nostro Pasquins. Non l'ho alzato quando diceva già finito. Mister Davide. Ma è uno dei due minuti di Lolli più belli in assoluto, secondo me. Voi stavate chiacchierando, non l'avete sentito, ma è veramente meraviglioso. Io stavo facendo redazione in tempo reale. Lo so che tu sei una professionista. Sono io che sono... It's a Bizzarini special. Comunque questa riflessiva, vincente, emozionale, giocosa, devo dire che una di queste volte adesso me li copio questi quattro file e facciamo tutto un coxo con questa musica qua di sottofondo. Dobbiamo chiedere il permesso. Ma no, che permesso? No, scusami, ma intanto che io so che permesso. Avete già parlato dei premi ricevuti, ma in realtà sì. Ora come ora questi tre signori gnocchi, con anche il loro lavoro e Giuliano e la sua tela, ecco. In realtà sono in concorso. Sono in concorso. siamo in radio. No, sono in concorso, non nudi. Perché il bello di coxo spaziale è che si fa in mutande. Questo voi lo sapete. Poi c'è chi esagera. No, ma quello d'estate, esatto. Adesso è inverno, si può star vestiti. No, il bello, hanno messo un nuovo termometro ed effettivamente ci sono 44 gradi. Da te, qua invece si sta bene, siamo bene noi ragazzi. Siamo cool. No, è vero, cool. Perché la tela sì. Di Giuliano, prima ancora di uscire, di essere montato, aveva già vinto un premio. Avevo esatto. Già detto cosa, che anche se io ero distratta. Invece adesso è in concorso, infatti mercoledì è in programmazione per il concorso del Doc Under 30. Sabato, domani. Mercoledì era la settimana scorsa e c'è la Bertozzi la settimana prossima. Perfetto. La mia gaffe è arrivata, finalmente ci chiedevamo quando e come, è arrivata adesso. Per il premio Contenco, no? No. Ma non solo, è anche in selezione. Ciao, per il Davide Donatello 2017. Esatto, cioè, è in selezione con altri una centinaio di documentari, di lungometraggio, e di questi ne selezioneranno 5, noi abbiamo le dita incrociate, speriamo. Su 175... 1419, direi che la possibilità è abbastanza alta. No, ma Davide Donatello è una roba seria. Oh, qua stiamo. Rendi conto? Cioè, non era ancora uscito nelle sale. non era ancora andato in anteprima ed era già stato preselezionato. Secondo me qua in mezzo c'è qualcuno che conosce qualcuno, perché non è possibile. Loro conoscono Giuliano. Ah, giusto. Scusa. No, va bene, vogliamo dire qualche cosa in più rispetto al percorso? It's a Bizzarini special. Quello possiamo dire. Che cosa? Rispetto a cosa attende adesso? Adesso da sabato il documentario esce nelle sale. Esattamente, okay. Esattamente. Adesso quindi, noi continueremo a mandarlo ai festival italiani e internazionali. Sono tanti, noi ovviamente abbiamo già fatto una ricerca mirata. E vedremo fino a che non vincete qualcosa. Anche hanno già vinto, perché no, sarebbe bella sta cosa se tu continui a mandare lo stesso documentario a tutti i festival. Prima o poi succederà che è il migliore di tutti gli altri. Ma potrebbe essere un consiglio quasi potrei anch'io con il mio lavoro teatrale. No, scusate, mi sono lasciato andare ad un perché c'è questo pezzo è un po' emozionale. Ma veramente sei terribile stasera, era tanto che non ti rivilavi così. No, ma invece allora sui premi quando appena ne brincate un altro subito al coxo. Volentieri, noi vediamo assolutamente. Quindi speriamo settimana prossima. Esatto. Domani quindi attenzione che la settimana prossima potrebbero essere qui con noi di nuovo. Allora facciamo così, siccome settimana prossima teniamo, siamo registrati, esatto. Rimanete qua che registriamo la puntata nel caso facciamo finta che l'avete vinto, tanto voglio dire ormai che siamo qua. No, va bene, invece io volevo chiedervi, perché sono una femminuccia, qualche cosa così carina che è successa. Una chicca. Qualche chicca. Le idee. Bravo. Io ho una chicca. Oh. E dunque, contate che quando abbiamo intervistato Giuliano non è mai stato abituato a intervista, avere i riflettori puntati. Abbiamo raccontato questa cosa che da lui non c'è internet. Non c'è internet, non c'è telefono, non c'è tecnologia. C'è solo la radio. C'è forse una radio. L'orologio. Non c'è l'orologio. Non ci sono orari di lavoro. No. È tutto molto elastico, diciamo. E quindi all'inizio lui era abbastanza anche teso a raccontarsi, a svelare il suo mondo, eccetera. E la chicca l'ho avuta quando siamo passati da una troupe di 7 persone a una sera siamo tornati in 2 per fare alcune riprese veloci che ci mancavano così. Lui ha, dal suo archivio, dai suoi armadi, dalle sue cose, ha tirato fuori delle foto di quando era piccolo, di quando era giovane, di quando giocava col suo cane, di quando aveva 3 anni. E a me è emozionato molto perché per la prima volta, forse, non dico che si sia messo a nudo, ma ha svelato quella parte di sé che prima non è riuscita a svelare, ecco. E quindi si è sentito proprio, non so, a suo agio. Ma poi alcune immagini sono finite anche nella pellicola, dico bene. Esattamente, esattamente. E secondo te, tu che invece lo conosci da più tempo, che come ha percepito questa, come Giuliano ha percepito questa esperienza? Inizialmente non aveva, lui non ha visto... Anzi, com'è che gliel'hai proposta? Gliel'ho proposta un giorno, ho detto, dato che forse l'unica cosa che non abbiamo detto è, oltre al motivo di girare questo film per il piacere effettivamente di girare, di fare questo progetto insieme, è perché teoricamente l'auto sarebbe in vendita, nel senso che Giuliano dai 28 anni di quando ha comprato la macchina ora ne ha 75, 74, 75. Li porta molto bene però. Li porta bene ed è anche molto agile. E quindi la macchina teoricamente sarebbe da vendere e io, dato che il mio mestiere è proprio quello di fare commercio completamente di auto storiche, dovrei essere la persona che si occupa di venderla. Come vendere una macchina del genere così speciale, così particolare, se non raccontare la storia di chi l'ha fatto? Quindi ho detto, Giuliano, se dobbiamo vendere la macchina, dobbiamo fare questo film, questo documentario. Poi, chiaro, piano piano gliel'ho messa giù, abbiamo fatto prima un giorno di riprese, poi un altro, poi un altro, poi un altro ancora, e alla fine siamo giunti al risultato finale, che lui ha visto mercoledì scorso. Come era? Non l'aveva mai visto. Beh, era in banana totale prima del film. Il termine tecnico. Era in banana, cioè totalmente, sembrava drogato proprio. Sì. Era in là, no, ma si è commosso molto. Si è commosso, chiaramente, gli è piaciuto. E adesso è diventato una star internazionale. Adesso si sente. È stato 3 giorni sui giornali. Sì, sì, pubblicato, 3 giorni su foto, Carlino, Repubblica, Corriere. Anche prima mi raccontavi che il primo articolo che è uscito su questa esperienza documentaria, sì. mi raccontavi che te lo sei trovato incorniciato. Sì, sì, sì. Un giorno sono passato a salutarlo. Lui mi ha fatto questo regalo che era l'articolo incorniciato su una cornice rossa, tra l'altro, come la macchina. Che poi ha un punto di rosso quella macchina, sì. Che è incredibile. Tutto fatto da lui, chiaramente, la cornice rossa, tutto è stato costruito ad hoc da lui. E la critica che ci ha fatto quando è uscito il primo articolo, che noi eravamo a Los Angeles, che avevamo ritirato il premio, l'abbiamo chiamato perché lo stesso giorno è uscito l'articolo sul Carlino e ci avevano mandato una foto con WhatsApp, immagino. Al che ho chiamato Giuliano e ho detto, Giuliano, compra il Carlino che c'è l'articolo su di te. E il titolo era un giovane regista, no, un anziano meccanico fa vincere un giovane regista. E mi fa, beh, mandato dell'anziano. Beh, 75 anni. Ci può anche. Un ragazzino, no. Non è. Ma c'hai i capelli lunghi fino a mezza schiena e poi mi sa che è alto, cioè tutti neri. Avrei messo un meccanico maturo. Esperto. Comunque Enrico mi piace, quando ho bisogno di vendere il mio appartamento a Zola Predosa magari facciamo un lungometraggio, certo. Un film porno tipo, no? Potrebbe per dare valore. Non chiedetemi di fare la regia però, Ah, molto. Però la colonna sonora nelle musiche almeno riflessiva. Molto bene, ci dobbiamo salutare perché qua il tempo sta stringendo e ci abbiamo i 2 minuti di Lolli. No, i 2 minuti di Lolli abbiamo già fatti. Ah, cavolo, però abbiamo la sigla finale, per cui abbiamo la sigla finale. Certo. Dai. Sì. Sei contenta? Ma qual è? Adesso la sentirai fra un po'. Va bene, ma allora dobbiamo salutarci. Certo. Niente più aneddoti. Vabbè, quando tornerete o quando ti telefonerò, Coxo, ce ne racconterai altri un pochino così. Ma innanzitutto, tanta, si dice a teatro, tanta merda per domani. E poi grazie di essere stati i super mega galattici ospiti della 163esima puntata di Coxo Spaziale, che da domani su www.coxospaziale.blogspot.com sarà riascoltabile e anche saranno visibili questi. E dunque grazie ad Alessandro Amante, il regista, Enrico Rondinelli, il produttore, e Luca Balboni, il compositore. Senti qua. Stava sbagliando. Esatto, le ho tagliate apposta per questa sera perché non volevo essere troppo invadente. Che meraviglia. No, infatti sei stato bravo a rendere la mia vita un inferno. No, ma hai fatto bene, perché se le facevano suonare tutti, dopo la gente li registrava, e poi dopo, se non comprava il disco, insomma, è importante, come fa Lolli che parla sopra ai suoi pezzi del programma radio. Ci vediamo il 23. Sì. Ah, no? E noi tra di là nell'altro studio a registrare. Esatto. Adesso. Molto bene. Senti Ciao. Qua. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. It's a busy special. Doing what you're doing. Radio Città Fujiko 103.1 FM.